con Max Zanin di Mial Vision per parlare del film Climax di Gaspar Noé al cinema da giovedì 13 giugno 2019. Max, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Ma sì, diciamo che è fondamentalmente una festa, cioè è un gruppo di ballerini che si ritrova in una vecchia scuola dove tra l'altro hanno fatto pare delle riunioni della destra, letterista, eccetera, quindi alcuni ballerini respirano appunto un'aria di così quasi demoniaca, esce nel suo dialogo di questo discorso. Qualcuno mette dell'allucinogeno, una droga non ben specificata, nella sangria che bevono tutti quanti. E da lì parte tutto, cioè una serie di, cioè il film si trasforma da un film che sembra dialoghi un po' molto francese così a quasi un horror, comunque un horror psicologico, ecco, una serie di allucinazioni e su una colonna sonora che secondo me è sufficiente pazzesca, perché va da Aphex Twin ai Daft Punk, Cernone, Rolling Stones, insomma una colonna sonora fantastica sulla quale questi ballerini, che sono poi tutti ballerini professionisti, e abbiamo ci sono solo due attori, adesso sono ballerini professionisti, e si lanciano in coreografie stupende, insomma dal cinema quasi si balla, ecco. Il tutto è basato su una storia realmente accaduta, tu sai cosa successe in effetti? In realtà non si sa bene, Gaspar Noè, il film parte così, che quella è una storia vera, e Gaspar Noè dice che è una storia vera. Io ho provato un po' a fare qualche ricerca, ma sinceramente non ho trovato nulla. Comunque pare che sia un fatto realmente accaduto nel 96 in Francia, dove appunto un gruppo di giovani ballerini si era riunito e in preda delle droghe, insomma, successe una serie di cose abbastanza tragiche, ecco, insomma. Cosa hai apprezzato in particolare del film? Mi colpisce tantissimo la regia di Gaspar Noè. Secondo me in questo film lui va oltre anche la sperimentazione visiva. Ci sono delle inquadrature stupende che secondo me chiunque, insomma, segue un po' il cinema, anche per esempio gli studenti di cinema, insomma, apprezzeranno tantissimo. In effetti devo dire, abbiamo fatto anche una masterclass con Gaspar Noè allo Yulma Milano e è stata seguitissima. Cioè c'erano ragazzi che avevano visto il film 5 volte. Quindi insomma sicuramente la regia. Poi mi piace tantissimo questo utilizzo della musica e diciamo questo film poco strutturato, perché la struttura è piuttosto, diciamo così, debole, ma allo stesso tempo molto forte, e con questi ballerini che si lasciano andare veramente, perché il film poi tra l'altro è girato senza sceneggiatura, cioè è tutto girato in improvvisazione e lasciando liberissimi gli attori di inventare cose, di portare avanti il film da soli, quindi l'ho trovato molto interessante per questo motivo qua. Poi in realtà la cosa che mi ha fatto veramente impazzire sono i titoli del film, perché lui parte con i titoli di coda all'inizio, e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché non sopporto quel gelo che si crea ad esempio ai festival, dove finisce un film, tutti applaudono e poi c'è un quarto d'ora di titoli di coda, quindi mi è piaciuta molto questa cosa di iniziare con i titoli finali, così se ce la siamo levata, e poi a metà film partono dei titoli di testa che sono graficamente pazzeschi, sulla musica di Cerrone, insomma veramente c'è tante cose che mi sono piaciute moltissimo, ecco. È un regista che già conosciamo in Italia per dei suoi lavori precedenti. Irreversibile penso che sia il suo successo maggiore, almeno in Italia, il film più conosciuto, c'era Bellucci, Castelli, eccetera. Poi Love è una bella sperimentazione, che è un po' in 3D, però con una forte struttura narrativa, con degli attori bravissimi che si sono prestati a un lavoro insomma abbastanza complesso. Però diciamo che Gaspar Noè viene visto un po' come il regista che provoca, ecco, quindi lui è ritenuto un grande provocatore. A me i provocatori piacciono, visto che io ho lavorato a lungo con Pinto Brass, ho fatto anche un documentario su di lui come regista, quindi le provocazioni mi piacciono, e Gaspar Noè mi piace tantissimo da questo punto di vista, per cui abbiamo deciso di distribuirlo. Ecco, dove lo avete incontrato il film e poi come avete deciso questa distribuzione? Il film ci è stato segnalato a Cannes, diciamo, l'abbiamo lasciato un po' decantare, perché inizialmente il prezzo richiesto era molto alto e sì, in realtà è un film molto autoriale, quindi qui in Italia non ha tantissime possibilità di essere visto, per cui siamo riusciti ad acquistarlo dopo alcuni mesi. Poi abbiamo deciso un'uscita, tra l'altro in collaborazione con Euro Pictures, che è specializzata, diciamo così, nel distribuire cinema francese d'autore, e quindi insomma abbiamo portato avanti in questo modo il film, che è un film complicato, ha avuto tra l'altro anche il divieto ai minori di 18 anni, pur praticamente non essendoci quasi scene di nudo, non c'è quasi niente. Però io dico una cosa di questo film: quando tu esci dal film, esci ballando, ma come se avessi preso un pugno in testa, perché ti lascia abbastanza sconvolto. Non so realmente perché, però il film ti lascia molto molto segnato e te lo ricordi benissimo per lunghissimo tempo. Quindi secondo me questi censori, che poverini sono insomma delle persone di una certa età sicuramente, anche se qualcuno poi ho visto ha fatto anche dei film abbastanza così un po' sporcaccioni negli anni passati, cioè ci sono dei produttori dentro, però insomma evidentemente sono rimasti un po' sconvolti dal linguaggio, secondo me dal linguaggio cinematografico al quale non sono abituati, e quindi hanno deciso che un ragazzo di meno di 18 anni non lo può vedere. Ovviamente noi non siamo assolutamente d'accordo, tant'è che abbiamo anche deciso, in realtà stiamo valutando, cercando di capire se è possibile questa iniziativa che si chiama Fatti portare dalla mamma, che consiste nel restituire il costo del biglietto ai minori di 18 anni e maggiori di 16, perché la legge prevede questo, che possono vedere il film se accompagnati da un genitore. Quindi chiunque abbia, diciamo, un buon rapporto con i propri genitori e diciamo così un po' franco, un po' aperto, può vedere questo film anche se ha meno di 18 anni, e poi basta che insomma si metta in contatto con noi attraverso la nostra pagina Facebook e noi provvederemo a restituire il costo del biglietto. Stiamo cercando di lavorare in questa prospettiva, insomma. In quante sale sarà? Siamo ancora alla ricerca di esercenti coraggiosi, siamo arrivati a 25 sale che ci permettono di coprire insomma abbastanza bene le regioni, però insomma ne avremmo volute molte di più, ma sai, cioè, chi si è tirato indietro soprattutto dopo il divieto 18, quindi insomma chi dice che si vuole aiutare il cinema italiano, distributori indipendenti eccetera, sa che non è assolutamente vero, e chi prova a fare del cinema un po' diverso, un po' insolito, un po' sperimentale anche sotto la fine politico è assolutamente ostacolato. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Climax di Gaspar Noé al cinema da giovedì 13 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento a Max Zanin di Mial Vision che lo distribuisce. Max, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a voi e viva il lupo. Ciao a tutti. Regista Enrico Masi sul suo documentario Shelter, addio all'Eden, al cinema da giovedì 13 giugno 2019. Di cosa si tratta? Dunque, dopo appunto 8 anni di lavoro dal 2011 abbiamo concluso questa trilogia dei grandi eventi. Qualcuno l'ha chiamata anche la trilogia degli eroi, perché in ognuno dei tre capitoli abbiamo approfondito la storia di personaggi la cui resistenza è diventata un po' simbolica e metaforica di una lotta globale alla neutralizzazione. Prima si parlava di neutralizzazione degli spazi causata da Olimpiadi Mondiali di Calcio nei primi due capitoli, The Golden Temple e Lepanto. In questo caso si parla di un nuovo grande evento. Abbiamo fatto come al solito un salto acrobatico carpiato e l'ultimo grande evento è la crisi umanitaria.

che a volte privilegia il dato quantitativo sul dato qualitativo. Non è la statistica, anche una vita umana conta, e una vita umana perduta a causa di un progetto europeo di gestione dei confini non riuscito, che in questo momento non è funzionante, credo sia il motivo per cui occuparsi e impegnarsi da cittadini europei, italiani e anche europei, di questa questione dei confini. Il regista Enrico Masi sul suo documentario Shelter, Addio all'Eden, al cinema da giovedì 13 giugno 2019. Valerio Maggi del collettivo René Vautier per parlare del documentario Il Suffira d'un Gilet, venerdì 14 giugno 2019 a Roma, alla sala convegni della Confederazione COBAS. Valerio, ben trovato. Ciao, buonasera. Partiamo dal collettivo, ci racconti un po' di questa esperienza? Il collettivo René Vautier nasce insomma dall'incontro di videomaker e io e altri due ragazzi, che appunto ci siamo ritrovati a fare lo stesso film sui giri gialli e abbiamo deciso insomma di riunirci per farne uno insieme e per organizzare anche proiezioni poi in giro per René e dintorni, per i paesi, nelle piazze, nelle sale. Insomma. René Vautier era un partigiano bretone, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale che ha combattuto contro i nazisti e poi, finita la guerra, ha deciso di imbracciare la telecamera come arma, diciamo, e ha cominciato a fare documentari contro il colonialismo francese. Per questo, insomma, è stato incarcerato più volte solo per aver fatto film. È, diciamo, un po' il capostipite, diciamo, del documentario d'inchiesta. Morto 2 o 3 anni fa, insomma, che ho conosciuto, insomma, qui in Bretagna. E quindi, diciamo, per ricordare, insomma, alla sua memoria, diciamo, abbiamo chiamato il collettivo così, col suo nome. Ci racconti poi di questo lavoro? L'idea è nata soprattutto dalla necessità di contrastare l'informazione, diciamo, mainstream che dipingeva il movimento dei giri gialli come fascistoidi, di destra, xenofobi, razzisti, eccetera, eccetera. Quindi insomma l'idea è stata di fare tutto questo, insomma, è nato soprattutto per proiettarlo in Italia, insomma, il primo montaggio, la prima versione del film è quella che ho già proiettato 2 mesi fa a Roma. E quindi è nato, diciamo così, per farlo vedere soprattutto in Italia, a Roma. E poi da lì l'abbiamo proiettato anche qui a Rennes, e da lì l'esigenza, insomma, di farlo più approfondito, di andare avanti. E quindi le riprese hanno continuato fino all'assemblea di San Nazaire, dove il film si conclude, diciamo. E quindi quello, insomma, l'esigenza è quella soprattutto di farlo vedere in giro, ma e soprattutto anche tra i giri gialli stessi. Abbiamo visto che è positivo guardarsi perché incontrano anche altri giri gialli attraverso il film. Ovviamente non tutti i giri gialli si conoscono e attraverso le proiezioni, attraverso le interviste riescono a vedere, insomma, chi sono anche gli altri. E quindi fa anche un po' di unione, insomma, crea anche un po' di questo, insomma. Il movimento da quando lo hai seguito e per quanto tempo? Dunque, abbiamo cominciato a fine dicembre a fare le riprese e fino a maggio abbiamo girato, insomma. Le ultime riprese siamo andati a Bruxelles, però non sono in questo film, sono per un altro film che faremo dopo. E quindi diciamo da dicembre a aprile, devo dire, diciamo, le immagini del film. E come hai strutturato il lavoro? Svolgimento cronologico, partiamo dall'atto 6, mi sembra, sulla raccolta anulare di Rennes, un blocco sul raccolta anulare, e da lì era atto dopo atto la manifestazione a Rennes, la manifestazione a Morlaix, un blocco su un ponte, una manifestazione al Palazzo di Giustizia, atto dopo atto si arriva all'assemblea dell'assemblea, dopo l'ultimo atto è Parigi, l'atto 18, che era il 16 marzo. E viaggia da Rennes, quindi San Nazaire, la Bretagna e Parigi soprattutto. Seguendo le mobilitazioni o alcuni di loro in particolare? Seguendo le mobilitazioni, e poi ovviamente ci stanno sì, degli intervistati di alcuni luoghi specifici. Uno è la casa del cittadino, cioè la Maison des Citoyens a Rennes, dove abbiamo intervistato 4 persone. E l'altro posto invece è la casa del popolo di San Nazaire, dove invece gli intervistati sono 2 invece. E poi diciamo all'assemblea dell'assemblea ci saranno interviste dei giretti gialli di tutta la Francia, insomma, diciamo da un po' dovunque. Quindi finisce un po' più sul generale. Che impressioni ne hai ricavato seguendo questo fenomeno? È che insomma è abbastanza sbalorditivo come fenomeno, perché sono tante persone che non hanno mai fatto politica in vita loro, insomma, che decidono di cominciare a fare un'attività politica, che si investono come fossero militanti di vecchia data, insomma, tutti i giorni seguono qualcosa, fanno assemblee, incontri, piccoli sit-in, eccetera, eccetera. Quindi diciamo la cosa positiva è quella, insomma, non si è evoluto tanto, non ci ha avuto un grande impatto sulle ultime elezioni. Il movimento, però, insomma, è una cosa da dire, è che ancora mi sembra, diciamo, alla trentesima settimana, e ancora sono parecchio mobilitari, insomma, parecchio al sud, soprattutto a Montpellier, Toulouse. L'impressione è ancora positiva, insomma, non penso che non finirà con l'estate, diciamo. Magari si abbasserà sicuramente la frequentazione, ma sicuramente riprenderà a settembre, insomma. È stimabile in migliaia di persone la composizione? Migliaia di persone, sì. Diciamo che attive al giorno d'oggi, secondo me ce ne saranno 10.000 che saranno attivi tutti i giorni, poi il sabato sono un po' di più. Che meccanismi hanno assembleari, i meccanismi decisionali? Beh, assemblee tutti i martedì, per esempio, qui in zona. E nell'assemblea del martedì, diciamo, si decidono le azioni della settimana, si decide dove si andrà il sabato a manifestare, perché ovviamente cioè, ogni sabato c'è Parigi, ma c'è anche la città di residenza, ci stanno altri appelli in generale, quindi si decidono, diciamo, le azioni il martedì e in settimana si incontrano e passano l'azione, insomma. Per l'estate si stanno preparando varie tournée per tanti gruppi che hanno progettato di fare un giro di tutte le rotatorie, per esempio il sud, dove c'è la maggioranza di giletti gialli, diciamo, sulle rotatorie, e stanno partendo varie carovane di giletti gialli che viaggiano, proiettano film, organizzano concerti, insomma, un'estate festiva, prevedono. E più o meno quante sedi avrà, dicevi, soprattutto nel sud della Francia? Direi centinaia, diciamo che all'assemblea dell'assemblea hanno messo una carta della Francia dove ogni delegazione metteva una puntina, cioè se vede nel film ho ripreso anche questa cosa, e al sud ce ne stanno parecchie, insomma, soprattutto al sud sono attivi anche nei caselli autostradali, ancora che sono caselli autostradali bloccati nel senso aperti, che non fanno pagare il pedaggio, ancora parecchie rotatorie che non sono mai state sgomberate, e che cominciano a aprire anche Case del Popolo, perché la prima è stata quella di San Nazaire, che appare nel film, e adesso hanno occupato qualche giorno fa un'altra Casa del Popolo a Marsiglia, a Montpellier hanno occupato un cinema, dove hanno proiettato il film, tra l'altro, il film che abbiamo fatto, a Tanna, sì, e insomma si stanno creando occupazioni stabili che prevedono, insomma, una durata nel tempo del movimento, insomma il movimento si sta radicalizzando nel tempo, come dire, sta strutturando, sta mettendo le radici, sì. Quali sono le principali rivendicazioni? Sono sempre le principali, diciamo, il RIC, il referendum di iniziativa cittadina. Le 10 principali direi che il reinserimento del DSS, che sarebbe la tassa sulle grandi fortune, che Macron aveva gentilmente elevato ai suoi amici, aumento dei salari, aumento delle pensioni, blocco delle privatizzazioni, dimissioni di Macron, ovviamente, ma in generale più democrazia, insomma, diciamo che la cosa che unisce un po' tutte è questa aspirazione a più democrazia, insomma. Tra le rivendicazioni ci si è aggiunta anche quella della messa al bando delle armi di guerra usate dalla polizia, i flashball, nel vedere queste armi che mutilano, che ciecano. I rapporti con la politica e l'amministrazione? Sono abbastanza conflittuali, poi dipende da zona in zona. Nei piccoli comuni, nei piccoli villaggi, ci sono addirittura sindaci che sono andati contro l'ordinanza del prefetto di sgomberare le rotonde, per esempio, alcuni sindaci hanno lasciato le rotonde occupate. In generale, diciamo, i partiti non si sono tanto mischiati, a parte la France Insoumise con François Ruffin, che ha fatto un film sui diritti gialli. Dagli altri partiti si tengono abbastanza a distanza, insomma. A parte, insomma, i partiti più radicali come il partito anticapitalista, eccetera, eccetera. Che tipo di circuitazione state pensando per il vostro lavoro?